4강 어휘 Amica Amico Attrice Capelli Chimica Dizionario Donna Grammatica Lezione Persona Psicologo Sicurezza Studente Torre Vita Zaino Zio Bellissimo Divertente Europeo Facile Famoso Interessante Pendente Simpatico Strano Più Quello A Secondo 문형 Che cos'è? È un libro. È una penna. Chi è? È il professore di italiano. Com'è Maria? È una bellissima ragazza. Chi è il professore di chimica? È quello con i capelli neri. È grigio il libro? No, il libro è giallo. Deva. Qual è la capitale d'Italia? La capitale d'Italia è Roma. Di che colore è la bandiera italiana? La bandiera italiana è verde, bianca e rossa. Qual è la città più bella in Italia? Secondo me Firenze. È una città grande o piccola Firenze? È una città piccola. È bella Firenze? Sì, Firenze è una bellissima città. La torre pendente è a Firenze? No, la torre pendente è a Pisa. È alta la torre di Pisa? No, non è molto alta, ma è molto strana.